Di Denise oggi per la prima volta se ne parlerà in tribunale. Dopo che la sua storia, gli istanti prima di scomparire e le ipotesi su quello che le sarebbe successo sono stati sviscerati per 5 anni dagli inquirenti, il cerchio comincia a stringersi. Sono le ultime immagini di Luciana Biggi, uccisa il 28 aprile di 5 anni fa nei vicoli di Genova. Con lei, nelle riprese delle telecamere di sorveglianza, c'è Luca Delfino, il suo ex fidanzato. Il corpo di Sara Scalzi è stato trovato ieri sera dai carabinieri nelle campagne tra San Pancrazio, Salentino e Avezzano. Lasciami i miei spazi, paga i tuoi dazi o muori strangolata proprio come Sara Scalzi. Falsi testimoni con in tasca mone, in vasche di cemento hanno acqua nei polmoni. Segui queste cronache nelle televisioni, rimani nel mistero come il caso dei Franzoni. Tu dimmi a cosa pensi, Raffaele insieme Amanda hanno ucciso Meredith proprio dentro la stanza. Siete un po' patetici a trarre conclusioni. Metti che domani uccidi i genitori, ma voi resterete dietro i televisori a farvi convincere che sono brutte azioni. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, sacco televisio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, sacco televisio. Questa è Psycho Television, cronaca nera. Scrivo il mio nome col tuo sangue su di una pantera. La notte è vera, porta consiglio, ma in TV la verità è nascosta ed è lontana un miglio. Parlano di Rosa Olindo, l'unico appiglio, la lama di un macete, la croce sulla parete. Pregate e scordate che un prete violente uccide una bambina a luci spente dentro una cantina. Altri casi ingiusti come il piccolo Tommaso non sono stati presenti nei giornali per caso. Anche Alberto Stasi aveva le sue ragioni, magari era un modo per provare nuove emozioni. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, sacco televisio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Sacco televisio, dramma pure fiscio. Dramma pure fiscio. Sacco televisio, sacco televisio. Scomparsa una bambina, Denise Pipitone. Ragazzi che per gioco danno fuoco ad un barbone. Non sono io la bestia come Volpe o Sapone. Non vedrai mai il mio nome alla televisione. Non è una love story come Eric e Omar. Se non stai attento muori dopo il coma. 40 coltellate, Delfino un assassino. Pensate voi il movente di questo omicidio. La tecnologia porta alla pazzia. Psycho Television non è lucida follia, ma lobotomia. La verità è cruda, tu a casa guarda e suda. Michele butta Sara dentro un pozzo mezza nuda. Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, dramma pure fiscio. Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television, Psycho Television. Sacco Television, sacco Television, sacco Television, sacco Television, sacco Television, dramma pure fiction, fiction, fiction.